cutting cake for her family. I see men at the water's side, casting nets at the surging tide. Oh, island in the sun, we'll look to thee by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. Twojej drodze kogoś to pna, niosąc w oczach smutek i lęk, a wiedz, że miłość jest wszystkim tym, czego mu brak, co doda sił, doda sił. Vogliamo strade nuovi, cieli ci tentano. Dove vai, il sogno tuo dov'è? Le folle sì, ti seguono ovunque vai. Lasci i segni tuoi, e la

è nato il mio destino, amaro senza te. Questo brivido ti scioglierà.